vanno predicando nel mondo parole di pace, ma hanno nel cuore una spada e una lingua feroce. Sono loro che hanno ammazzato, sepolto, deriso, ingiuriato, e ora parlano, parlano, parlano di cielo e di stato. E fanno una vita da schiavi in testa solo progetti, per avere sempre solo il potere, costi quello che costi. E sparano, sparano, sparano in nome di Dio. E questo non è certo un dettaglio che ho inventato io. Barando, ballando, barando, si va tutti a fondo. E l'unica via che rimane non è di questo mondo. E l'anima, l'anima, l'andata in pasto a quei cani. Quei cani che sputano ossi e leccano le mani. E quando la vita gli annuncia una nuova avventura, si fanno un po' più di coraggio, si fanno paura, ma non si chiederanno e mai ti crederanno. Per loro chi cambia è un inganno, è un peccato, diranno. E danno le chiavi a chiunque ha la faccia tosta, di dare dei segni distratti e qualche carezza a chi indica un nodo di rotta, a chi non dice mai basta, a chi si assenta una vita, a uno scemo o a un'anima persa. Barando, ballando, barando, si va tutti a fondo. E l'unica via che rimane non è di questo mondo. E l'anima, l'anima, l'andata in pasto a quei cani. Quei cani che sputano ossi e leccano le mani. Le piazze della Cina fucilate e cremate, pulite come fossero nuove e poi incorniciate. Nei vicoli a Shanghai, sui marciapiedi a Pechino, si guardano allo specchio da uno sguardo assassino. La Lega regionale degli agonizzanti insulta ad occhi chiusi tutti diversi, tutti i passanti. Bestemmia tutto il suo odio contro chi l'ha cresciuto. Sputa sotto il suo tetto dove si è ingrassato. Barando, ballando, barando, si va tutti a fondo. E l'unica via che rimane non è di questo mondo. E l'anima, l'anima, l'andata in pasto a quei cani. Quei cani che sputano ossi e leccano le mani. Sogni d'oggi, conti, fieri conti in banca. Sono loro, sono gli eroi di una razza che monta. E guai a chi li tocca, a chi fa solo una mossa. Ti spaccano, ti spezzano, ti bruciano con una carezza. Li guardi, li prendi, li fissi, ma son tutti uguali. questi uomini d'oggi dipinti come nei giornali. Non hanno una goccia di senso nel bene e nel male, soltanto uno sguardo da niente, il silenzio e qualche grammo da cento. Barando, ballando, barando, si va tutti a fondo. E l'unica via che rimane non è di questo mondo. E l'anima, l'anima l'è andata in pasto a quei cani. Quei cani che sputano ossi e leccano le mani.